12 e 15 minuti spaccati. Non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia, il vento mi... Insolita puntualità per questo primo appuntamento di febbraio di Maldestra, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Mi sto strappando dalla terra e dal cielo per portarmi dove non lo so. A introdurci, come al solito, senza sicura, la memoria, la nostra consueta sigla da ormai 6 stagioni. Tra l'altro ci scusiamo con l'occasione per l'assenza prolungata dal 12 gennaio, dicono almeno così le pagine del blog maldestra.noblogs.org, il ovviamente riferimento web insieme a www.ondarossa.info di questa trasmissione. Tra l'altro una canzone che un po' cade a fagiolo, perché parlando della, dell'olocausto e della deportazione in qualche maniera supplisce con, insomma, al buco che abbiamo purtroppo avuto intorno al 27 gennaio, giorno della memoria, appuntamento che solitamente cerchiamo di coprire da questi microfoni e che questa volta ovviamente, come dicevo prima, è stato un po' bypassato. Un appuntamento tra l'altro finito sulle prime pagine di molti quotidiani, specialmente quotidiani locali romani, per la consueta apparizione delle vergognose scritte di, in questo caso, Milizia e altri sparuti neonazisti che hanno pensato, come spesso accade nelle occasioni di ricordo e di memoria, appunto, farsi notare per la beceraggine dei commenti. Il vento mio. Questa volta è stato preso in partita di mira il Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, il vecchio comando della polizia durante l'occupazione nazista a Roma, e tra l'altro con l'occasione cercheremo anche, questo anche per introdurre la puntata, cercheremo di sentire le curatrici della mostra che proprio in questi giorni, fino al 14 febbraio, è in corso a Via Tasso e che ha un titolo in tedesco che leggiamo direttamente tradotto: La prostituzione forzata nei lager nazisti, un risvolto dei tanti, sicuramente poco coperti, poco conosciuti dalla storiografia e appunto anche nel dibattito sulla memoria del nazismo, della seconda guerra mondiale, che cercheremo in qualche maniera anche di presentare proprio attraverso questo interessante esperimento di mostra fotografica, tra l'altro, che ci giunge dalla Germania e dall'Austria, perché sono appunto tra l'altro mostre curate da un gruppo viennese di Austella e da un gruppo della Università delle Arti di Berlino. Scusate, tra l'altro, tanto che attiviamo il collegamento, mandiamo una piccola anteprima, cioè lo spot in versione lunga del festival, o meglio della fucina antiautoritaria Partizan, un incontro dibattito che si svolgerà dall'11 al 14 febbraio tra l'Università La Sapienza e il Forte Prenestino. Tra l'altro ne parleremo in coda di trasmissione, intanto potete farvi un'idea di quello che succederà attraverso questo spot. Mostre, video e teatro dall'11 al 14 febbraio. Giovedì 11 alla Sapienza, incontri e dibattiti. Alle ore 11 presso la facoltà di geologia, Noi ricordiamo tutto, foibe e revisionismo storico. E alle ore 17 a psicologia, Fuori norma, psichiatria, un volto della repressione. Venerdì 12 febbraio al Forte Prenestino, dalle 17, dibattiti. Il ruolo delle nuove destre nella guerra tra poveri, con interventi da Rosarno, Ponticelli, Verona. Intersezionalità delle lotte contro il fascismo. Intervengono Porpora Marcasciano e Marco Geremia. Dalle 22, video Il tempo delle arance e Never Trust a Cop. E concerti di Gente Strana Posse, DJ Scheme, Stranos Elementos e a seguire Balkan Beat con DJ Set, Nisha, Cactus e Zoltan. Sabato 13 febbraio, corteo nazionale No Vat. Alle ore 14, piazza Bocca della Verità. E dalle 19.30 al Forte Prenestino, aperitivo e presentazione del libro L'uniforme e l'anima, indagine sul vecchio e nuovo fascismo. Alle ore 22, teatro Sangue dal naso di Andrea Maurizi, a cura di Rata. A seguire i concerti, Grunge, I Porci, Signor K, Checkpoint Charlie, Drawing Dog, Malatesta, Cuba Cabal, Lele Prox, Acero. Il tutto in diretta su Radio Onda Rossa e a Spazio 1 No Vat Party. Domenica 14 febbraio al CSOA Forte Prenestino, ore 15, assemblea conclusiva. E per finire, cena Bella Vita. Inoltre, mostre e installazioni a cura di Occhi Rossi, Circolo Maurice Torino, Azione Gay e Lesbica a Firenze, Elizabeth Holsen e ancora tre giorni di TV autogestita e cucina vegan. Partisan, fucina antiautoritaria dall'11 al 14 febbraio per rilanciare percorsi di liberazione e conflitto sociale. E come annunciato, dicevamo, una corrispondenza prima di questa giornata con una compagna della cooperativa sociale Be Free, una cooperativa che lavora nella dizione di laboratorio permanente intorno accoglienza, sostegno alle donne, soprattutto intorno alla questione della violenza di genere e delle vittime di tratta. Curatrici, tra l'altro, per Roma, per l'Italia, di questa mostra nei locali del Museo della Liberazione di Via Tasso sulla prostituzione forzata nei lager nazisti. Ti lascio la parola se mi senti. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Eccoci. A tutti e tutti. Allora, ti lascio intanto la parola per una presentazione di questa mostra che tra l'altro già è stata un po' coperta da questa radio, però insomma ci sembrava giusto anche dedicargli spazio, dato che sarà tra l'altro presente in quei locali fino al 14 febbraio, se non sbaglio. Esattamente. Allora, la mostra riguarda appunto, come dici tu, della prostituzione portata nei lager nazisti. È una mostra che è stata importata dalla Germania, quindi noi come cooperativa sociale abbiamo preso contatti con il gruppo organizzatore di questa mostra, origine a Vienna, e che poi per diverse vicissitudini è arrivata fino in Germania, per cui diciamo il gruppo che inizialmente l'aveva ideata, che è un gruppo viennese di studiosi e studiose viennesi, si è messo in collegamento con l'Università di Berlino in Germania e hanno creato una mostra ancora più grande con l'idea, il progetto di farla diventare una mostra itinerante, e questo è il motivo per cui la mostra è riuscita ad arrivare anche nel nostro paese. E ci tengo molto a precisare che è la prima volta qui in Italia, per cui è un evento tanto importante. Come stavi accennando tu, la mostra sarà in esposizione al Museo della Liberazione di Via Tasso a San Giovanni fino al 14 febbraio, e quindi è ancora possibile poterla visitare. Ed è un evento importante perché, come dire, porta alla luce un tema di cui purtroppo non si è parlato abbastanza, su cui sono state costruiti spesso muri di silenzio e tabù, chiaramente per il difficile tema della prostituzione forzata che si affronta, di cui non abbiamo documenti, di cui non c'è molto, soprattutto nel nostro paese, a differenza invece di altri paesi in cui magari questo tipo di riflessione è stata posta avanti da studiosi di tutto il mondo. E in Italia purtroppo è un tema che di cui si discute solo adesso, per cui è un, come dire, una novità attraverso la quale bisogna ricostruire davvero un percorso, iniziando magari proprio da questa mostra che ci offre dei documenti e un inizio da cui partire. Guarda, una domanda proprio relativa soprattutto, diciamo, alla relazione fra quello che è il vostro poi lavoro quotidiano, sì, intorno appunto alle vittime di tratta, ai centri antiviolenza, sì, e appunto una questione che poi è anche strettamente di recupero della memoria, anche di ricerca, voglio dire, approfondita di tematiche non, appunto, non banali assolutamente, proprio perché poi molto poco coperte soprattutto dalla storiografia, anche quella ufficiale. Sì. Il tipo di relazione che avete per esempio con, appunto, con i gruppi tedeschi e austriaci organizzato, da dove è nata questa idea, diciamo, della mostra? Sì, allora, è nata da un lavoro di ricerca che io ho portato avanti per il mio dottorato. Io ho fatto un dottorato in storia delle scritture femminili, per cui, diciamo, c'è stato questo amore per la letteratura e per la scrittura delle donne, che poi in qualche modo è confluito anche in una pratica politica e una pratica lavorativa, perché poi ho iniziato a far parte della cooperativa sociale di Free, che ho fondato insieme ad altre compagne, per cui ho avuto l'opportunità di portare quello che il mio percorso di studi, il mio percorso accademico, in una realtà poi sociale, lavorativa e anche di chiaramente passione politica. Per cui il lavoro è nato da una ricerca storica sulle vicende, sull'esperienza delle donne che sono state deportate per motivi politici nel campo di Ravensbrück in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Il campo di Ravensbrück è stato un campo completamente femminile, quindi è ricordato come un campo femminile, di cui purtroppo non si parla molto, soprattutto poi la questione della deportazione delle donne prestate per motivi politici. Per cui il progetto è nato da questa ricerca, è andata avanti, siamo riuscite, io grazie al sostegno del mio compagno della cooperativa, siamo riuscite a contattare il gruppo organizzatore della mostra, che chiaramente aveva lo stesso intento, lo stesso obiettivo di cominciare a diffondere una memoria delle donne di cui non si è parlato, quindi cominciare a ricostruire pezzi memoria che il genere femminile non ha avuto la possibilità in qualche modo di solidificare negli anni per tutta una serie di motivi, e insieme abbiamo deciso di portare questo lavoro che loro avevano fatto, come dicevo inizialmente, a Vienna e poi a Berlino, di portarlo anche in Italia, quindi insomma di continuare questo lavoro di ricostruzione e di testimonianza. Il lavoro è stato difficile anche per loro che hanno organizzato la mostra, perché pur riuscendo ad avere accesso a diversi documenti, soprattutto di tipo documentaristico, non ci sono immagini di donne, non ci sono foto, ma ci sono documenti che attestano proprio l'esistenza di una istituzionalizzazione dei bordelli all'interno dei campi, però come dicevo, pur avendo accesso ai documenti non abbiamo di che siamo più supporti, perché le poche donne che sono sopra l'esperienza dei bordelli nei campi hanno deciso di non parlarne, hanno taciuto l'esperienza per motivi che si possono comprendere, chiaramente alla vergogna di aver vissuto un'esperienza simile sul proprio corpo, alla vergogna di parlarne e anche poi soprattutto alla paura di essere considerate delle collaborazioniste del governo tedesco per aver accettato, tra virgolette, una scelta del genere. Questo lo dico perché le donne che venivano reclutate nei bordelli, alle donne che venivano reclutate veniva chiesto di accedere al bordello, però chiaramente la scelta volontaria, tra virgolette, veniva fatta passare per volontaria, ma di fatto non lo era. Perché comunque, queste donne, diciamo, il contesto era molto più complesso, era quello del lager, per cui di fronte alla possibilità di poter avere delle condizioni di vita migliori, delle condizioni di salute migliori, e che altre donne accettavano di con la speranza di potersi poi salvare, quindi accettavano una scelta che doveva passare per volontaria, ma poi di fatto volontaria non era. E quindi perché abbiamo deciso di fare, perché come dicevi anche tu, noi siamo una cooperativa che lavora da quando siamo nate sui temi della violenza contro le donne e in particolar modo della tratta delle donne, e quindi siamo sempre più forti della scelta politica e della scelta lavorativa che portiamo avanti, che le donne devono affrontare chiaramente il silenzio dietro il quale si costruisce la loro storia, che è una storia appunto di tabù, di reticenze, di non detti, di esperienze vissute, esperienze traumatiche vissute sui propri corpi e non portate allo scoperto. Per cui l'intenzione era proprio questa, cioè di farci anche noi testimoni e portavoci di tante donne che non hanno potuto parlare e che non hanno potuto raccontare esperienza e riuscire a creare una memoria, chiaramente che come dicevo anche prima va tutta ricostruita. Guarda, tra l'altro comunicazione un pochino difficoltosa, ci sentiamo un pochino male. Sì, sappiamo che sei molto occupata in questo momento, tra l'altro sei stata molto esauriente e hai anche anticipato anche alcune delle questioni che ti voglio chiedere, tra cui anche l'articolazione della mostra, insomma, non so se hai altro da aggiungere e se altrimenti ovviamente ti ringraziamo estremamente per la disponibilità e cogliamo l'occasione per un invito a visitare la mostra che appunto sarà entro il 14 febbraio al Museo della Liberazione via Tasso. Esatto, tra l'altro insomma, museo che in questi giorni è al centro di una attenzione particolare perché oltre ai consueti quotidiani problemi di gestione comunque di una struttura che ha avuto tra l'altro un fortissimo rischio di essere chiusa, è importantissima per la memoria di questa città. È tra l'altro stata bersaglio di scritte vergognose proprio nell'occasione tra l'altro del 27 gennaio, che era il giorno in cui voi tra l'altro presentavate proprio ufficialmente con un tavolo. Pronto? E appunto, come temevamo, dato che la corrispondenza è stata funestata dall'inizio purtroppo da qualche problema tecnico, è caduta. Comunque dicevamo, Museo Storico della Liberazione via Tasso, dal 23 gennaio passato al 14 febbraio 2010 è in corso questa mostra sulla prostituzione forzata in lager nazisti. Chi è stato in ascolto ha ascoltato appunto motivazioni e natura di questo evento che pensiamo abbia tutte le ragioni di essere visitato e accogliamo con un pezzo il ritorno dell'altra voce di questa trasmissione che era andato all'estero a cercare fortuna, evidentemente troppo bene non gli è andata e appunto stacchiamo qualche minuto per poi tornare in diretta. Come on, come on, come on, come on. attesa di attivare il prossimo collegamento a proposito di Antifa Hooligans, cogliamo l'occasione leggere da un blog tra l'altro curioso di sostenitori tedeschi del Livorno, amaranto.noblogs.org, una delle poche traduzioni che girano dell'appello del 13 febbraio a Dresda. L'anno scorso ne parlavamo tra l'altro con appunto un attivista antifascista tedesco, quest'anno ne parliamo un po' noi, ma con una piccola parentesi proprio su questa annuale marcia dei neonazisti europei a Dresda, città simbolo del orgoglio nazionale tedesco ferito dalle bombe alleate durante la seconda guerra mondiale. L'anno scorso mi pare 7.000 o comunque giù di lì migliaia di nazisti hanno marciato in questa città, ovviamente in mezzo anche a proteste e contestazioni. Quest'anno il network Dresden Nazi Frei, che è il network che ha lavorato per costruire una rete, anzi altro, sono due grandi alleanze, una No Pasaran e l'altra appunto Dresden Nazi Frei, sono entrambe alleanze di movimento ma anche di cittadinanza, come capita spesso da quelle parti, di cittadinanza attiva, che hanno cercano di impedire appunto questo sfregio comunque alla memoria storica tedesca ed europea in generale. Per capirci, ovviamente la reazione degli apparati repressivi tedeschi non si è fatta, insomma, non è stata per niente dolce. Sono stati perquisiti il 19 gennaio, sono state perquisite sia la sede dei Link, tra l'altro di un partito di sinistra tedesco a Dresda, sia a Berlino il negozio Red Staff, che è un po' il riferimento per le reti antifasciste, per una parte almeno della rete antifascista berlinese. E inoltre è stato oscurato il sito dresdennazifrei.de, tra l'altro per chi fosse interessato può comunque raggiungere informazioni sia dal blog di No Pasaran sia da dresdennazifrei.com, che supplisce all'assenza. Leggiamo il comunicato. Il movimento della contestazione contro una delle più grandi manifestazioni nazifasciste che ogni anno si tiene a Dresda, in Sassonia, Dresda Nazi Frei, è stato attaccato dal procuratore e dalla polizia nelle ultime settimane per impedire la protesta contro i nazisti. Il 19 gennaio sono effettuate delle perquisizioni domiciliari dei sostenitori della campagna a Dresda e a Berlino, tra le altre negli uffici del partito Die Linke e nel negozio degli Antifa Red Staff. Gli organi della repressione sequestravano tutto il materiale per la mobilitazione contro la marcia dei nazisti, principalmente tutti i manifesti con lo slogan 13-2-2010 Kein Nazi auf Marsch, gemeinsam blockieren, cioè 13 febbraio 2010 nessuna marcia dei nazisti, blocchiamo insieme questa roba, insomma. Questo appello che tentava di impedire la manifestazione nazifascista con la pratica della disobbedienza civile è stato menzionato come ragione per la repressione contro gli antifascisti, perché si tratterebbe, secondo il procuratore, di una incitazione a delinquere, di un'incitazione a un reato. La marcia dei nazisti a Dresda è uno dei più grandi eventi in Europa ed è anche un raduno di nazisti di tutti i paesi europei. Nel 2009 sono riuniti 6.000 nazisti nell'anniversario del bombardamento della città di Dresda del febbraio 45 per strumentalizzare questa data. I nazisti negano la Shoah e mandano avanti la conversione della storia del regime nazista tedesco mentre abusano della memoria dei morti tedeschi. Contro questo falso della colpa tedesca hanno protestato nel 2009 circa 5.000-10.000 persone. Ma la polizia ha impiegato una massiccia presenza di 4.000 agenti e ha imposto il diritto di riunione ai nazisti. Per questo si sono unite anche quest'anno due grandi alleanze antifasciste per bloccare la marcia, No Pasaran e Dresden Nazi Frei. Dresden Nazi Frei è una collaborazione di 300 partiti, organizzazioni, iniziative e più di 1.000 persone singole, ed è stata attaccata dallo Stato a causa di questo impegno. Ma il comportamento della polizia ha anche aiutato. Tanti notabili e politici hanno condannato la repressione di Stato contro una protesta antifascista. Così i cartelli sono stati redistribuiti e appesi in tante città tedesche in un'azione pubblica giovedì scorso. Allo stesso modo il movimento antifascista ha aiutato a salvare il sito web dresdennazifrei.de dopo il disinnesto così viene tradotto, però immaginiamo l'oscuramento della Procura di Stato. L'alleanza quindi si è trasferita sullo stesso sito dresden-nazifrei.com e tante iniziative hanno fatto da Mirror. Purtroppo la criminalizzazione continua. Durante l'applicazione pubblica, l'affissione pubblica dei cartelli, che poi in realtà dei manifesti, parecchie persone sono state fermate e identificate. Per questo è importantissimo proseguire lo sviluppo della campagna e sostenere le attività. Hanno bisogno della massima pubblicità e della partecipazione di migliaia di persone che il 13 febbraio si troveranno in linea contro la marcia dei nazisti. Occorrono tante persone per bloccare i nazisti, ma è possibile. Une trace de passage, l'histoire est de retour, bidonville, nouveau paysage, centre de rétention, fourgon de CRS, contestation déprimée par des apprentis SS. Ils se croient libres et informés correctement, détestent les livres assommés comme la plupart. E con la prossima corrispondenza, tra l'altro grande riunione oggi, perché oltre al ritorno dell'altra voce ce n'è un'altra al microfono, che ormai insomma erano due settimane che non ci sentiva, ma proprio perché non siamo andati in trasmissione. Ci senti? Sì, eccomi okay. Qui, buongiorno. Rimaniamo in area teutonica, in Austria questa volta con te, per una riflessione su un evento prossimo, non vicinissimo ma comunque prossimo, cioè le elezioni amministrative di Vienna. Il 29 gennaio, tra l'altro questo ti accennavo poco fa, si era tenuta una, sempre proprio per fare un po' un panorama di una realtà che tra l'altro monitoriamo molto poco in realtà, si è tenuta una manifestazione antifascista contro il raduno della VKR, cioè la fondamentalmente si tratta della Wiener Kooperationsring, cioè una specie di corporazione studentesca nazionalista con tutto quel contorno di praticamente di retaggi della vecchia nobiltà asburgica, e che riprende un po' quelle che erano le associazioni tedesche nazionaliste, da cui poi sono insomma, che hanno un po' fatto da corollario ai vari regimi mitteleuropei durante il secolo scorso. Ti lascio la parola, appunto, magari cercando di tenere anche un po' il filo su questa peculiarità in qualche maniera anche del del nazionalismo tedesco, di lingua tedesca, perché appunto poi era ad una organizzazione sia tedesche propriamente della Germania sia austriache. Ti lascio la parola direttamente a questo punto. Sì, diciamo che quello che si apre in Austria è un anno elettorale, ci saranno diversi momenti nel calendario e alla fine si arriverà con la prossima estate all'elezione del municipio di Vienna. Ci saranno elezioni di medio termine, varie elezioni amministrative, e poi alla fine quello che rappresenta probabilmente il traguardo più importante per la destra radicale, appunto, è l'elezione del sindaco di Vienna. Che cos'è in Austria? Brevissimo passo indietro: è accaduto che comparso Haider, ma già prima, diciamo, della scomparsa di Haider, l'uomo che aveva portato il Partito Liberale fuori, diciamo, dai limiti della nostalgia più ristretta, e l'aveva trasformato in un moderno partito anti-immigrati, un po' sul modello del Front National di Jean-Marie Le Pen, l'FPO, il Partito Liberale, ma che di liberale in realtà molto poco, è un partito della nuova destra europea, era diventato il secondo o terzo partito dell'Austria. Dopodiché c'è stata una crisi, il partito si è spaccato, Haider è rimasto in Austria, ha formato un nuovo partito, che però praticamente ha avuto vita molto breve soltanto in Austria, il partito austriaco del futuro, che praticamente sta oggi rientrando, si chiamava in realtà Unione per l'Avvenire dell'Austria, questa è la denominazione esatta, e è rientrato nell'FPO. L'FPO adesso è tornato in qualche modo in auge come era all'inizio degli anni 90, non più guidato da Haider ma guidato da un nuovo leader, Heinz Christian Strache, e sostanzialmente sta riproducendo quel modello di consensi molto forti, soprattutto tra i lavoratori, che li aveva, diciamo, caratterizzato la linea politica all'inizio dello scorso decennio. Certo, come dicevate voi, il nazionalismo austriaco si nutre di vecchi miti pangermanisti, aleggia sempre lo spettro, diciamo, dell'eredità dell'Anschluss, cioè dell'unificazione con la Germania nazista fatta prima della Seconda Guerra Mondiale, che portò di fatto le regioni austriache dentro i Länder tedesche, regioni tedesche a tutti gli effetti. Questa è una parte dell'eredità culturale, questa eredità pangermanista che l'FPO ha accarezzato per molti decenni. Diciamo che ora pesa un po' meno, anche perché quelli che ne sono stati interpreti, si trattasse dei neonazisti, si trattasse di coloro che erano orfani o nostalgici dell'Anschluss, o dei vari irredentisti per molti anni in Austria, che avevano basi, diciamo, le organizzazioni pangermaniste del Sud Tirolo italiano, insomma, a in Tirolo e altre, ad Innsbruck e non solo. Diciamo che più che altro per un motivo generazionale questo elemento pesa ancora dal punto di vista un po' folclorico della tradizione, pesa poco dal punto di vista della conquista dei voti. A pesare molto, ed è soprattutto la campagna che è già iniziata in vista delle elezioni amministrative, in particolare di quelle di Vienna, è inizia la conquista del voto operaio, la conquista e il definirsi, diciamo, di questo partito come una sorta di destra sociale austriaca. In particolare a Vienna, a metà degli anni 90, l'FPÖ era segnalato perché era arrivato accanto ai socialdemocratici, che praticamente governano la città di Vienna da quando sono nati, stiamo parlando dell'inizio del Novecento, una città con grandi tradizioni operaie e dove anche le diverse ondate migratorie si erano di fatto integrate in questa cultura socialista, socialdemocratica, legata alle tradizioni sindacali. Questo meccanismo è oggi in crisi, ormai in crisi da un quindicennio. Recentemente un importante quotidiano come Der Standard, una sorta di repubblica austriaca, ha detto in qualche modo la vicende legate all'immigrazione, se negli prossimi vent'anni noi non riusciremo, diciamo, a costruire politiche di integrazione, a ridurre il deficit che c'è di cittadinanza dei nuovi venuti, che appunto non sono più operai, non riescono più ad essere inseriti nella tradizione organizzativa del movimento operaio, insomma, che conosciamo bene, un modello che riguarda un po' tutta l'Europa, noi rischiamo di consegnare il paese alla destra populista, che di questa difficoltà di integrare gli immigrati si fa interprete, ovviamente favorendo politiche più xenofobe di chiusura. La battaglia quindi è tutta legata sulla conquista dei quartieri popolari, dei settori ex operai e di questa roccaforte, diciamo che da questo punto di vista Vienna assomiglia nella geografia sociale dell'Austria più alla Milano degli anni 70 che alla Roma degli anni 80 e 90, vale a dire una vecchia città di sinistra con solide tradizioni operaie, dove esiste tutta una rete anche associativa legata al Partito Socialdemocratico, ai sindacati, alle associazioni ricreative, dei pensionati, nei quartieri, eccetera, eccetera. Scusami, proprio in occasione di questa iniziativa di cui poi appunto andiamo magari a fare una chiusura del tuo intervento, il sindaco di Vienna, tra l'altro, si vanta di governare la città come praticamente ultimo baluardo dell'antifascismo in tutta l'Austria, praticamente. Quindi c'è questo Michael Heupel, si chiama, mi pare, che è appunto che ama presentarsi con la fortezza antifascista contro la parziale estrema destra nella città, nel paese, in qualche maniera. Sì, perché appunto nel corso degli ultimi 10-15 anni la destra radicale del Partito Liberale ha conquistato consensi, ha tendenzialmente conquistato consensi però, diciamo, nelle periferie e nella periferia del paese dal punto di vista regionale. Il grande successo appunto Länder, di cui era originario Haider, in Carinzia era il risultato più forte. Altre regioni frontaliere, altre regioni di confine con i paesi di cui arrivano gli immigrati hanno segnalato questo successo. Ovviamente però viene un'altra cosa, è anche un po', in un paese tutto sommato piccolo, l'unica città che possa avere, diciamo, l'aspetto di una metropoli cosmopolita, eccetera. Tale è comunque, per concludere, diciamo, il livello di allarme che i giornali austriaci in questi giorni dicono si è tornati a una situazione tipo quella che era arrivata prima, che si era prodotta prima dell'Anschluss, quando da parte delle destre radicali nazionaliste si definiva la presenza degli ebrei spesso fuggiti dai pogrom nella Russia zarista, nei paesi dell'est, come una minaccia per l'identità nazionale austriaca. Oggi in qualche modo il pericolo è lo stesso, dicono, appunto, dice un giornale come Standard, perché il numero di immigrati è talmente alto in alcuni quartieri da, e soprattutto mancano politiche di integrazione, da diventare questo una sorta di alimento per le politiche xenofobe, per il passaggio di interi pezzi, diciamo, della società viennese, addirittura dagli ambienti socialdemocratici o comunque dalla tradizione socialdemocratica alla nuova destra. Ci sono parecchi mesi di campagna elettorale in cui si potrà registrare se questo tipo di tendenze avranno effettivamente successo o meno. Senti, appunto, io ti dico solamente questa cosa, te poi magari sei più attento poi a quello che si muove appunto intorno anche a questioni magari un po' più appunto alte, diciamo. Però questo, il ragionamento che facevi, si collega bene, perché proprio il 29 gennaio invece si teneva, ti dicevo, questo ballo, specie di ballo delle debuttanti alla Hofburg, tra l'altro, che è il vecchio palazzo imperiale, della praticamente delle organizzazioni studentesche, però inteso ovviamente in chiave proprio quasi nostalgiche, aristocratiche praticamente. L'iniziativa degli antifascisti, tra l'altro, che a Vienna ha un carattere particolarmente pink, diciamo, nelle modalità, nelle pratiche, si è risolto tra l'altro in un bilancio molto pesante, cosa che ha creato, da quello insomma, almeno a leggere i comunicati dei attivisti viennesi, insomma, non è particolarmente quotidiano subire una repressione così forte, perché si tratta di avere praticamente il bilancio parla di 20 persone in ospedale e una decina, 14 persone invece fermate per un paio d'ore nei commissariati viennesi. Ora, non so quanto queste due, questa fiammata di repressione magari si è collegata forse più anche al contesto, perché qua si tratta di uno di quegli eventi in cui sono stati presenti, per dirne qualcuno, Jean-Marie Le Pen, qualche antisemita impenitente come Alexander Dugin, Martin Graf, Barbara Rosenkranz, cioè praticamente tutte quello che è anche il circuito del negazionismo, che tra l'altro in Austria è reato, insomma, in qualche maniera, se ricordiamolo che David Irving è ancora, se non sbaglio, in carcere. Sì, ma diciamo che questo circuito, come si diceva prima, c'è un circuito esplicitamente neonazista che ha spesso avuto contatti con il Partito Liberale, e c'è una tradizione giovanile, forse qualcuno se lo ricorda, a Vienna ci sono confraternite studentesche che si rifanno a quelle del periodo tra le due guerre mondiali, i cui membri si sfidano a duello e vanno fieri del portare o meno una cicatrice in volto che segna, diciamo, il fatto di aver sfoggiato la propria virilità. Ovviamente questo tipo di contatti, che sono stati come quelli delle confraternite degli ex combattenti del fronte dell'est o delle confraternite degli ex combattenti delle SS, hanno avuto un ruolo soprattutto negli anni passati, nei lunghi anni, diciamo, del dopoguerra, all'interno della formazione dell'FPO, che nasceva come partito di riunione di tutte le frange della destra radicale. Poi appunto ha avuto il sopravvento questo aspetto sociale. Quanto all'altro elemento che ricordavi tu, ma diciamo che nell'arco di questi 10 anni è vero che Vienna è rimasta come bastione socialdemocratico e quindi anche di tradizione antifascista nei confronti della nuova destra, però è anche vero che il governo austriaco, già prima, ricordiamo, c'è stata un'esperienza di governo con i conservatori, Democrazia Cristiana in realtà, e i liberali di Haider, ma già prima anche i governi con Democrazia Cristiana e socialdemocratici avevano attuato delle forti politiche di chiusura nei confronti degli immigrati, ad esempio all'indomani del 1980. 89, quando questi segnali di crescita della destra erano cominciati a registrarsi, si erano chiuse le frontiere, anche se si sapeva che oltre che i migranti, diciamo, tradizionali, lì c'era anche un problema di tutta una parte di mondo dell'est che si apriva alla libertà in quel momento, e che quindi chiudere, diciamo, limitare fortemente l'afflusso di immigrati e di permessi di soggiorno, di richiedenti asilo o di persone che volevano semplicemente spostarsi per motivi di studio o di lavoro, diciamo, diventava un vero e proprio problema sociale. L'Austria quindi in qualche modo ha cercato di fermare la destra radicale anche mettendo i muscoli, reprimendo i movimenti sociali al proprio interno, reprimendo la prima volta gli antifascisti, cercando, cioè, come è stato fatto da altre forze moderate in giro per l'Europa, di strizzare un po' l'occhio magari alle politiche repressive chieste dall'estrema destra, per poi però interpretarle, diciamo, su un piano repubblicano, su un piano accettabile democratico, senza tentennamenti nei confronti del neonazismo. Oggi il problema è che 10-15 anni di questa politica, perfino l'inclusione dei membri del partito di Haider in un governo a Vienna, tra l'altro Vienna, insomma, è una città particolare, è stata per molti anni la sede del centro di Simon Wiesenthal, e ancora oggi accoglie un'importante biblioteca e ciò che rimane, diciamo, del circuito dei cosiddetti cacciatori di nazisti, no? Quelli che nel dopoguerra cercavano, diciamo, i criminali di guerra che si erano nascosti sotto nuovi nomi, sotto nuovi identità, eccetera eccetera. Quindi è una città emblematica di una vecchia cultura antifascista che in qualche modo oggi perde un pochino i colpi. Il passaggio però è importante, cioè il fatto che questo insieme di culture che si è cercato di limitare ma non si è riusciti a sconfiggere, oggi si candidi proprio a rappresentare quel cuore cosmopolita, quello che rimane cosmopolita di questo paese, e che pur, diciamo, avendo diminuito il ruolo che questi gruppi estremisti avevano all'interno del Partito Liberale, certo qualche eco continua a prodursi. Tra l'altro ricordo che soltanto nelle ultime elezioni europee di qualche mese fa, della scorsa estate, gli slogan del leader del Partito Liberale erano stati tutti all'insegna di un recupero delle parole d'ordine che avevano accompagnato l'Anschluss e comunque, diciamo, il successo dei nazionalsocialisti, quindi parole d'ordine fortemente legate a mettere l'accento sul rapporto tra l'identità nazionale, la razza e la difesa sociale, intesa come difesa dei ceti più deboli austriaci da contrapporre ovviamente agli stranieri, cosa che aveva richiamato l'attenzione internazionale. Si era detto da parte di molti osservatori che questo partito parla il linguaggio del Terzo Reich, diciamo che quindi la polemica era montata molto, ma appunto siamo di nuovo qui e questa è un po' la situazione oggi. Va bene, guarda, penso che con te possiamo chiudere qua, anche perché vorremmo fare un'ultima piccola corrispondenza, e a questo punto ci riaggiorniamo prossimamente con qualsiasi tipo, insomma, quale sia poi, insomma. Va bene, buona fine trasmissione. A te, ciao. Ciao. Non ci resta che chiudere con poche parole, insomma, di introduzione al fucina antiautoritaria Partizan. Se possiamo, colleghiamo subito la voce che avevamo programmato di sentire. Pronto, ci sei? Sì, ci sono. Ciao. Ok, buongiorno. Dicevamo, anche per questioni, diciamo, di tempo, ma tanto abbiamo ancora poi un altro appuntamento prima dell'inizio di questo di questa 4 giorni. Comunque, intanto abbiamo già mandato lo spot in anteprima, diciamo, dato che è arrivato appunto in mattinata in radio. diciamo due parole proprio di presentazione di Partizan, magari anche iniziamo a quantomeno parlare delle ragioni che hanno spinto a rincontrarsi, diciamo, lì all'italiano è da maggio che non c'è un incontro così corposo sulla tematica antifascista in senso molto ampio, come tra l'altro l'appello, come appunto racconta bene l'appello. Esatto, e niente, questo appuntamento che poi insomma doveva essere un po' più piccolo è diventato, è cresciuto, questo insomma ne siamo molto contenti, e viene dal Festival delle Culture Antifasciste che si è svolto a Bologna, e insomma ci sembrava che a livello seppur cittadino, con interventi anche da fuori, portare avanti quel discorso e non lasciare che quello fosse rimasto soltanto un festival, insomma, quindi battere un po' il tempo, e ci sembrava Roma, insomma, scendere un po' più giù andava bene per poi riorganizzare l'appuntamento dell'anno che ci sarà poi a Bologna. E niente, questa iniziativa insomma è stata costruita insieme, che ha condiviso le tematiche a cui hanno partecipato differenti collettivi e gruppi per la proposta dei tavoli. E la cosa più importante insomma dell'iniziativa saranno i tavoli di discussione con l'assemblea finale, insomma, che ci sembrava giusto almeno cercare uno spazio per poter condividere pure le differenti modalità in cui l'antifascismo si sviluppa, ognuno a seconda delle esigenze dei territori e insomma dell'attualità che vivono i territori stessi, insomma. Tra l'altro una relazione stretta con poi l'attuale, una relazione stretta con le lotte, tant'è che è uno dei tavoli tematici proprio su intersezionalità delle lotte contro il fascismo. Esatto. Quello è un tavolo proposto da Facciamo Breccia, sapete poi tutti quanti che il 13 febbraio ci sarà il corteo nazionale Novat, insomma questa è stata una buona occasione per poi avere pure un momento d'analisi e di confronto rispetto a queste tematiche. E i tavoli, certo, questo è uno, e insomma capire come l'antisessismo, l'antifascismo, l'antirazzismo, insomma devono essere lotte che si devono, sono lotte che si e mischiano continuamente, insomma, che ci vedono partecipi su differenti fronti e differenti tematiche. E i tavoli saranno quattro, li descrivo un pochino, insomma, visto che saranno una parte importante di questi quattro giorni. I primi due si svolgeranno all'Università La Sapienza, uno a psicologia e uno a geologia, quello di geologia al mattino, e è sul revisionismo storico, anche perché il 10 è la giornata della memoria rispetto alle foibe, e ci sarà anche una commemorazione, questo lo ricordo a chi volesse partecipare, una commemorazione all'una, appuntamento al verano per chi vuole andare al mausoleo dei partigiani jugoslavi a deporre dei fiori. E questo è uno degli appuntamenti. Questo il tavolo si terrà a geologia alle 11 del mattino, e l'altro tavolo sarà il pomeriggio a psicologia invece, dove verranno sviluppati i temi della psichiatria e insomma di quello che vuol dire l'internamento e insomma questa forma di repressione vera e propria, insomma, senza sminuirla rispetto ad altre lotte e altri punti di vista. E gli altri tavoli si terranno al Forte di venerdì, il venerdì pomeriggio. Uno è quello di cui abbiamo parlato prima, sulle intersezionalità delle lotte, mentre l'altro sarà il riferimento al ruolo delle nuove destre, quindi dai quelli che chiamavamo insomma i nuovi neofascisti veri e propri alla Lega o altri movimenti insomma che l'Italia, di cui l'Italia ha visto nascere in differenti forme anche a livello territoriale pure questi. E, il ruolo nelle nuove destre nella guerra tra poveri, insomma, dove il conflitto è un conflitto che si spalma piuttosto invece che riconosce chi sovradetermina insomma dall'alto, insomma cercare di ricoinvolgere la nostra visione del conflitto, insomma, e cercare di inserirsi in quelle che oggi sembrano in Italia sfuggirci di mano le situazioni, insomma, quindi Rosarno, quindi Ponticelli, insomma, dove gli italiani poveri e sfruttati contro migranti poveri e sfruttati, insomma, senza annebbiati quasi da tutto quanto, scusate. No, no, figurati, tanto, cioè, tanto, diamo riferimento web anche perché ovviamente sì, è difficile esaurire a parole, diciamo, anche la ricchezza di questa 4 giorni. Esatto, e sul web saranno, sono presenti, ma adesso diamo anche riferimenti, sono presenti anche delle descrizioni molto più ampie, insomma. No, infatti, così chi vuole partecipare ha la possibilità di avere un'introduzione, sapere di cosa si parla e che contributo portare ai tavoli, insomma. Sì, è www.autistici.org/ram, quantomeno per una prima infarinatura, diciamo. Tra l'altro una relazione molto stretta con un appuntamento ormai consueto a Città di Roma, che è il NOVAT, che si tiene il 13 febbraio, ricordavi prima, insieme appunto alla, al tavolo sulle intersezionalità delle lotte contro il fascismo, che appunto è curato tra l'altro da scusa, però mi sento bassissimi, quasi sì, non mi sento. In realtà oggi è un po' una giornata funestata dalle, dai problemi tecnici, quindi guarda, tanto abbiamo detto, abbiamo un'altra settimana ancora per poterne parlare. Tra l'altro questa, ci cogliamo occasione per ricordare che questo mese sarà molto denso di comunicazione antifascista, è l'anno del è il mese del trentennale dell'omicidio di Valerio Verbano, un appuntamento a cui questa città ovviamente è molto legata e che questa radio seguirà tra l'altro con appuntamenti praticamente settimanali, proprio in avvicinamento a quello che poi saranno le giornate del 20 e del 22 febbraio, cioè in occasione proprio del trentennale dell'omicidio di Valerio. Con, non so, se appunto, se volevi dare qualcosa. Sì, io una cosa la volevo aggiungere, uno spazio particolare per le mostre, che prima ho sentito anche corrispondenza della compagna di Bifi, perché insomma ci saranno 4-5 mostre differenti e sono abbastanza interessanti, insomma ci sarà la mostra che è stata attaccata a colpi di sbombolettate a Torino, sulla visibilità trans, è una mostra che l'abbiamo letta nelle cronache e sarà presente qui quei giorni al Forte Prenestino, e associata a questa ci sarà anche un'altra mostra che forse qualcuno se la ricorda, è stata esposta sempre al Forte molti anni fa, della Elisabeth Olson, che fu famosa questa mostra perché esposta in un museo in Svezia fu attaccata a colpi di mazzetta dai nazisti e cominciò a girare proprio con lo spregio fatto per far capire insomma di quanto abbiano paura poi i gruppi neonazisti di una cultura di questo tipo, insomma della proposizione di una cultura di questo tipo. E insieme ci sarà un'altra mostra sempre a cura dell'Azione Gay e Lesbica di Firenze, che è una ricerca fatta su foto anche abbastanza insomma dirette su quello che è stato il travaglio, il periodo difficilissimo per le donne prima, durante e purtroppo insomma a conclusione dei passaggi nei campi di concentramento e tutto quello che si sono vissuti prima di essere deportate, insomma. E poi ci sarà insomma Occhi Rossi, che farà più interventi, uno in riferimento a quello che insomma un po' visto che erano molto presenti a COP15 a Copenaghen, e l'altra invece è una mostra totalmente autogestita, quindi ci sono, c'è un riferimento per quello di occhirossi.org e per collaborare alla mostra inviare delle foto, poi c'è una scheda tecnica per come farlo, una mostra fatta da tutti, quindi c'è la possibilità di poter trovare esposte le proprie foto. La tematica è sempre quella dell'antifascismo, abbastanza generica, insomma. Scusami. Va bene, tra l'altro sul sito proprio occhirossifestival.org appunto è possibile trovare la modalità di partecipazione, esatto. Anzi, a questo punto forse proprio perché c'è un po' di tempo lo diciamo, bisogna inviare le fotografie a mostre@occhirossifestival.org, la tematica è l'antifascismo e l'antiautoritarismo. Le foto devono avere un lato lungo non superiore a 1024 pixel, 72 dpi, formato JPEG, peso non superiore a 200 kg. Siccome mi fanno segni dalla regia che dobbiamo chiudere questo spazio per dare, lasciare il GR andare, ti salutiamo con... Okay. Chiudiamo con lo spottino in versione breve, quello lungo l'abbiamo già mandato all'inizio. Ciao, okay. A tutti, a tutti, a tutti i materiali che giro.